It is later than you think. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Dietro quei cancelli che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude. La fabbrica di polli produce, non cuoce quasi mai. E mentre nella fabbrica di polli il macabro ciclo della vita e della morte non conosce pause, Kappa e Drago si chiedono perché non sono in discoteca a divertirsi. We tell you this frankly. If you wish to avoid the excitement and tension of these imaginative plays, we urge you, calmly but sincerely, to turn off your radio now. Drago, sta attento dove metti i piedi. Sì, soprattutto i piedi. È pieno di polli qui. Sì, pieno di polli, anche di quello che i polli lasciano per terra quando passano. 15 centimetri quadrati di spazio vitale per ogni pollo. Sì, vuol dire che qualcuno... praticamente stiamo camminando sui polli. Vabbè, quindi... qualcuno in libertà c'è sempre. Ah, eccola di nuovo. Oh no, ma... Shhh, almeno capiamo cosa dice. Ma se non stai è vero, zitto. Non si capisce, mi rifiuto. Drago, è tedesco, bisogna stare ad ascoltare con attenzione. Però questa voce così robotica che parla in tedesco mi ricorda tanto i Kraftwerk. Sembra una canzone di Radioactivity. C'era una canzone così, cioè canzone. Era uno che parlava in questo modo. E invece no, Drago, è Himmler. Vabbè, Himmler è una tua teoria. No, e quindi... è una mia teoria, è storia. Himmler amava i polli. Vabbè, questo bisogna ricordarselo perché è fondamentale. Allevava polli e anche piccioni. E questo lo sappiamo. Sì. E poi questa è una fabbrica di polli. Va bene. I messaggi sono in tedesco, se tanto mi dà tanto. Beh, che ora è? È mezzanotte. Mezzanotte. Io a mezzanotte di solito non ero in una fabbrica di polli, almeno fino a non molto tempo fa. Ah no, e dove eri? A letto, in dolce compagnia. Oppure, che ne so, davanti alla TV. Questo è più probabile. La TV, Drago, è una fabbrica di polli. Quindi guardare la TV ed essere qui sono la stessa cosa. Ah, la stessa cosa. Invece tu dove eri a mezzanotte di solito? Ma... a vivere la notte. Eh? A vivre la nuit. E cosa vuol dire? E cosa vuol dire, Drago? Vivere la notte. Vivere la notte. Ma dai, sembra una di quelle frasi giornalistiche che non capivi. Provavi a leggere l'articolo e poi era la pubblicità di un locale notturno, quindi non vivere la notte è una cosa che non fa per te, Drago. Per vivere la notte bisogna avere dei cromosomi speciali. Ah, cromosomi speciali, sì. Come i bambini Down. Esattamente. Bisogna avere dei geni, insomma, delle molecole. Ma cosa stai dicendo? Vabbè, Drago, quella roba lì, insomma. Ah, quindi, e io ne sarei sprovvisto così, geneticamente, molecolarmente. Sì, tu non hai mai visto il mondo dei polli semivivi. I polli semivip. Che cosa? I semi veri important polli. Polli loro e polli quelli del loro seguito. Sono ad esempio, che ne so, le starlette che scroccano cene e champagne da un locale all'altro. Quelle scroccano, ma alla fine c'è qualcuno che paga, no? Sì, e non è il gestore del locale. Come non è il gestore del locale? Drago. La promozione. No, no, è uno tipo un avvocato, diciamo, di Parma. Uno così, un po' decentrato come professionista, un imprenditore, così, che è lì tutto contento nel locale notturno solo perché è a due tavoli dalla starletta. Ah. E quindi alla fine si trova il conto da pagare per tutti, starletta compresa, ma lui è contento. Che pollo. Però è contento. Sono il pollo VIP, il very important pollo. Dico assolutamente sì, piuttosto che adoro essere un pollo. Sono il pollo VIP e parlo come un pollo. Chickens eat crap. La fabbrica di polli. Ho smesso di accoglierli, ho smesso di ascoltarli, ho smesso perfino di guardarli, ma non smetterò mai di contarli. Loro e i loro soldi, che fra poco diventeranno i miei. Entrano più o meno a quest'ora, poco dopo mezzanotte, e se ne vanno un po' prima dell'alba. Chi è quel sant'uomo che li ha imbottiti di retorica della notte, come fosse antibiotici e mangime, consegnandoli alle mie discoteche e al mio profitto? dovrei farmelo socio, cedergli quote dei miei locali, dare un senso morale a tutto questo con un'equa spartizione del bottino. Mi chiamo Francesco Forte, ho 53 anni, una moglie, 3 figlie, 2 discoteche, 6 bar, 1 ristorante e nessuna paura. Faccio molti soldi ricaricando all'inverosimile cocktail scadenti e carpacci spugnosi. Poi prendo i molti soldi e li uso per corrompere funzionari pubblici e politici che danno appalti alla mia società di trasporti. E con la società di trasporti ci faccio moltissimi soldi. Poi prendo i moltissimi soldi e ci compro altre discoteche e altri bar. Insomma, sono la cosa migliore che sia successa al capitalismo dopo l'invenzione della catena di montaggio. E voi, voi che siete svegli a quest'ora, voi che da un locale ci state uscendo o state per entrarci, la prossima volta che mi date 20 euro per una Coca-Cola, ricordatevi che state facendo molto di più che divertirvi. State partecipando a una gigantesca sottoscrizione pubblica in favore di Francesco Forte. Mi state aiutando a mantenere la Porsche, il Piper e la piscina. E se per una volta, mentre pagate, mi fisserete un po' più a lungo, capirete che quello che vi è sempre sembrato il sorriso dell'oste era il ghigno del padrone. Ottimismo e talento. Poi un suono lontano. Ma che ora è? Che ora è? È mezzanotte. Ma non è possibile, ma qui è sempre mezzanotte. Facciamo una cosa, non chiediamocelo più, oppure quando ce lo chiediamo non stupiamoci che è mezzanotte, perché ormai sappiamo, è mezzanotte. È sempre mezzanotte. È mezzanotte e stanno facendo anche un sacco di rumore. Ma qua, per forza, qui lavorano, bravo. Lavorano. Qui non la fabbrica mai di polli è sempre mezzanotte. Produce e non chiude quasi mai, anzi mai. Però mezzanotte, a quest'ora, a Forte dei Marmi... Cosa diciamo, c'entra Forte luogo, dei Marmi? È un luogo da mezzanotte, Forte, sì, dei Marmi, no? A quest'ora la fabbrica di polli si sta materializzando in un ristorante sulla spiaggia, con Luisa Fantolini come star. No, aspetta, aspetta, chi? Luisa Fantolini, ho messo lì un nome e cognome a caso, perché ormai è così. Ma come parli? Come ormai è così? È così cosa? È così che funziona. Ah. Tu guarda i programmi di Rete 4 al pomeriggio, no? No, guardali tu. No. Da un giorno all'altro, in questi programmi, scopri che ci sono dei nomi e cognomi di donna che hanno un significato per il pubblico di quei programmi. Hai capito? C'è, sì, della gente che a quei nomi e cognomi associa anche un volto e una carriera. Ecco, ogni giorno uno nuovo. Vuoi che prima o poi non nasca da questo scempio una Luisa Fantolini? Ma allora perché non una Zelda Sartalli? O anche un Ottavio Scarcalidia? Va bene, capo, però dai, usiamo per semplicità Luisa Fantolini. Va che bene, viene Luisa bene, Fantolini. Anche allora, lei. La fabbrica di polli si materializza nel ristorante a Forte dei Marmi, sulla spiaggia, che in realtà però non è un ristorante, no, ma lo è solo in apparenza. Solo in apparenza, esatto. Perché dietro alla sua matrice, diciamo, al suo Matrix, quello che si percepisce, c'è la vera realtà del ristorante, che in realtà è un posto dove spennano i polli. Ho capito bene? Hai capito bene, però qualcuno potrà dire che questa è la dura legge del turismo, no? Oppure è la dura legge dello spettacolo, è così che va. Cosa ti qualcuno lo potrà pure dire, Drago, ma facciamolo dire a quelli che dovrebbero dirlo, oppure a quelli che ordinano magari per 3 amici e poi, sì, pagano per tutti quelli presenti nel locale senza nemmeno saperlo. Però quello succede anche perché uno, insomma, io so che Briatore, e non ho vergogna a dire questo nome, Flavio Briatore, una volta hanno provato a fargli pagare dello champagne una cifra spropositata. Lui ha guardato il conto e sai cosa ha fatto? È uscito. Ha detto: io non pago, voi siete pazzi. Ha preso e se n'è andato. Ho capito, ma i polli non hanno mica il coraggio di Flavio Briatore. I polli pagano e tra sé e sé pensano: beh, ho appena pagato 35.000 euro. Però almeno ho mangiato a 2 tavoli di distanza da Luisa Fantolini. O da Zelda Sartalli. O da Zanirio Carcatella. La fabbrica di polli produce, non chiude. La fabbrica di polli.